È il senso di responsabilità che manca. Come noi padri di famiglia possiamo nutrire fiducia nei giovani quando la radio, il cinema, la stampa, la televisione incitano continuamente il giovane alla dissolutezza morale più completa? A parte il fatto che noi la televisione manco ce l'abbiamo, ma proprio il discorso dei mass media che da qua c'entra e da qua c'esce, intesi? L'altra sera, per fare un esempio, mi è venuto ad accendere la televisione, una di quelle stazioni là, PTT, TPT, PTT, TPT. Beh, io pensavo che si fosse giunti a certi limiti estremi, ma santa Madonna, a dovermi vedere davanti una donna, cosa ancor più grave, madre di famiglia, tirar fuori ste foce, sbattersene davanti, beh, è stato veramente il colmo. Cioè, questa, signori miei, è porno anarchia. Vabbè, professor, questo gli ha detto che la televisione non ce l'ha. Ma volevo narso, dovevo parlare di lui, di com'è, di come non è, di come dovrebbe essere, professor! Tuo figlio è quello che è, Mario. Chi semina raccoglie, ora il punto è di vedere che cosa hai seminato. Ah, ma diventa pure colpa mia! Se tu fossi stato più severo, se tu l'avessi castigato, al momento opportuno probabilmente non ti troveresti nella situazione in cui ti trovi. Per quel che mi riguarda, io amo citare un episodio. Era l'inverno del 1959, che fra parentesi fu un inverno estremamente rigido. Mio figlio Gabriele, che a quel tempo aveva 15 anni, non sopportando una mia giusta osservazione, uscì di casa sbattendo la porta. Io allora lo raggiunsi e lo fissai negli occhi e gli dissi: domattina andrai a scuola senza scarpe, a piedi nudi. La sera stessa trovai sul cuscino del mio letto un biglietto. Sapete cosa c'era scritto? A stronzo, punto esclamativo. Papà, perdonami, ti sono estremamente grato, ma vi posso garantire che se anche oggi, che lui è un ufficiale in servizio permanente a Bolzano, volesse ripetere una stessa identica cosa, io non esiterei neanche un attimo a riprenderlo a schiaffi anche di fronte ad altri. Mi pare una volta ci ha provato, sta ancora a piangere i calci che ci ha piato. Neanch'io, se mi consentite, sono d'accordo su questi metodi basati sulle imposizioni. E a questo proposito, se mi è concesso, vorrei ricordare una frase che a me sembra molto pertinente. È una frase di Tito Livio, frase che io amo spesso citare nel mio colloquio domenicale con i fedeli. E dice: saldo è lo stato nel quale si ubbidisce volentieri. Ma se vogliamo fare una trasposizione a questa frase, si può anche dire: salda la famiglia nella quale si obbedisce volentieri. Ma mi meraviglio di lei, padre, di tutti voi uomini di chiesa, perché buone parti delle colpe oggi ricadono proprio sulla chiesa. Una volta in chiesa ci si stava con un messalino in mano, nel silenzio, nel raccoglimento. Oggi con tutte ste chitarre, ste batterie, tutte ste donne con sti blue jeans, ste magliette, con ste pocciole fuori, ma finiamola, è una vergogna. Ah, professore, noi ricominciamo a divagare. Io mi ho chiamato qui per parlare delle chitarre, dei tamburi, dei soldati, dei pace. Che palle! We'll be right back. basta. Basta, seccata. L'ho voluta seccare così bruscamente. D'altronde siamo noi, per cui... Abbiamo fatto sentire anche un... neanche uno spot oggi, ma uno spezzone di Un Sacco Bello che potrebbe riprendere tutto quello che si è detto finora e tutto quello che diremo poi anche nei prossimi giorni. Nelle prossime il presente puntate. E il futuro, esatto, della brusca. Esatto, leak et nunc della parolaccia. Ma che brava. Guarda, dovevamo finire sul stronzo, poi invece era punto esclamativo. Poi era troppo bello, abbiamo detto no dai, lasciamolo su. Era un tutto. Sacco bello, esatto. Perciò che palle. Bene bene, benvenuti, buonasera a tutti. Questa è, boh, ho già riperso il conto un'altra volta, l'ottava, settima. Forse settima. La settima, sì, dice la settima scaletta. Della 2.0 edition. Sì. Siete contenti di essere ancora qui con noi in nostra compagnia, una delle trasmissioni più longeve della neonata Radio Wombat? Sentite sotto quanto in sottofondo, che successone. Ma a proposito di trasmissioni longeve, ok, noi siamo una delle più longeve effettivamente, insieme a La Fuga del Gatto, in principio c'era 3000 siepi, Slick Chick. Naturale, che la nostra Vladimir sì. È una etrina. Fuoco alle polveri, esatto. Mortal Wombat non era proprio Hertz, delle primissime, 8 Hertz, sì. Storica. E però abbiamo delle new entry, sì. Il nostro palinsesto si rinfresca un pochino con la super new entry cinematografica del coming song. Ragazzi, che titoli, dei copyright nati in questa radio, mi stanno a rubare, sì, tutto il lavoro, sì, guarda. Sì, anche il logo, devo dire, notevole. Esatto, e poi abbiamo, sì, anche un'altra, sì, nuova trasmissione che speriamo continui così questa domenica a toppato, ma insomma gliela possiamo passare. Perché purtroppo, tecnici, capito, appartengono a questo giro musicale che poi il fine settimana si deve stronca. Stare sul pezzo e si stronca, è comprensibile, però ci sentono tantissimo, esatto. E quindi verranno perdonati soltanto se assenti, ma in funzione di un po' di serata comune. Tremendo. Quindi per questa volta saranno perdonati, per poi chissà, vediamo, vediamo. Ecco. E poi una prossimissima, ma ancora non ne parleremo, no? Ce la teniamo nascosta, però diciamo un po' una cosa diurna, una un po' culinaria. Una cosa molto gustosa, una cosa un po' gustosa. Però non vi diciamo nient'altro. Palinsesto del Wombat si arricchisce, lo trovate aggiornato su wombat.noblogs.org, i nostri contatti sono sempre gli stessi e vedo anche un bellissimo post-it che forse ho scritto io ma non mi ricordo, ho scritto Brianino, tutto attaccato, ecco. Con tanto di accenti, è proprio bello. E poi quella delle 13:45, sì, che è un po' una senza frontiere detto in tutte le lingue. Esatto. E anche questa è non è una new entry, però, della settimana scorsa, però ricordiamolo insomma anche a chi capita qui per caso. Quindi siamo con voi dalla colazione ormai o quasi tarda colazione, sì, fino alla tarda notte con il programma del sabato sera, sì, del sabato notte. Alive, super diretta. Siamo proprio contenti. Stiamo diventando una radio vera. Serica. Una radio serissima, sì, una radio ricca, piena di contenuti, bellissima musica, soprattutto la nostra. Nostra sigle. Ma soprattutto hai detto seri? Serissime. Seri. Quindi no? Posso dire cazzo figa. Oggi non ho preparato il beep, perché io voglio proprio il beep a pulsante e il play non mi basta perché ho una perdita di millesimi di secondo notevole. Lo sai che c'era una sorta di app per so. Un cosino per Chrome, sì, che sì, ti appaccia, che fa proprio sì sì, lo clicchi e ti fa il rumorino. Quindi ti fa anche il peto, perché tanto anche la prossima puntata ne avremo bisogno, soprattutto la prossima Accidenti, puntata ne avremo ragazzi. Bisogno. Perché, senza anticipare troppo, ma diciamo che questo beep, almeno altri due forse. Sì. diamo possiamo finire, possiamo arrivare a metà novembre con questa tematica, secondo me. No, troppo no, perché poi davvero se qualcuno ci ascolta solo in questo periodo pensa che siamo delle persone scurrili, cosa che invece non è assolutamente vera. Hai capito? Stronzo. Anche urlato fischietto così nel microfono, sul microfono. Mi salta. Appena mi distraggo un attimo, ho la sindrome di Tourette. La regia dalle mani. Ho la sindrome di Tourette. Ecco. Ecco. Sì, sì, sì. Ma sì, no, conosco anche qualcun altro che ce l'ha, ma va bene. Insomma, vogliamo parlare di qualcosa di questa puntata, non parlare solo delle prossime, come solo noi sappiamo fare. Esatto, vediamo, prevediamo e stravediamo. Belline, però brave, sempre sì. Puntuali, sempre sul pezzo, non scazziamo. Soprattutto modeste. non se la tirano mai, invece sì. Ma perché tutte queste parolacce? Perché anche oggi riprenderemo il filo cortissimo della volta scorsa, perché purtroppo per problemi tecnici la puntata è durata la metà rispetto a quanto sarebbe dovuta durare in origine, e come succede di solito. E quindi riprendiamo il discorso da dove ci siamo fermati la volta scorsa. Mi mangiano le patatine davanti. No, perché ovviamente lo sapete, la brusca va in onda dopo l'orario del tè e durante l'orario dell'aperitivo, per cui ogni tanto ci sentirete sgranocchiare qualcosa, professionalissimo. È così. Abbiamo parlato la volta scorsa, stavo per dire l'anno scorso, vabbè. La volta scorsa di questa benedetta parola, la volta prima era cazzo, la volta successiva era fica o figa. Non è per una questione di non è per il voler essere scurrile a tutti i costi, semplicemente perché da una statistica che vi abbiamo proposto nella prima puntata, diciamo che le parolacce a sorpresa nel parlato quotidiano degli italiani non sono tra i picchi di parole più usate, però ce ne sono, e le più usate ovviamente sono cazzo, figa e stronzo. Arriviamo al dunque. Mettete a letto i bambini. Arriviamo al dunque. Però prima io farei un attimo un piccolo punto che era rimasto indietro della volta scorsa. Sì, abbiamo un paragrafettino da raccontarvi. Esatto. La parola figa nasce anche come sineddoche o figura retorica che sta a significare una parte per il tutto. E non solo, la parola fica ha registrato un cambio di genere. Allora, abbiamo dato un sacco di teorie linguistiche e un sacco di teorie anche etimologiche riferite a questo termine, però si sa da cunnus a fico, che viene trasformato al femminile per rivolgersi al frutto e non alla pianta, abbiamo anche una nuova, tra virgolette, definizione, una nuova etimologia. Il termine, in realtà, nasce nelle parlate calabrosicule, tardivamente latinizzate, nelle quali il frutto del fico è sempre stato femminile. Quindi non c'era un'ambiguità tra fico la pianta e fico il frutto. Si diceva fica, molto semplicemente. In particolare, il riferimento è a quel frutto dalla qualità nera, detta mulingiana. Io avevo letto mulignana, vabbè. Che quando è maturo, è leggermente spaccato, fa intravedere il rosso della polpa e di conseguenza assomiglia alla vulva femminile. Il sostantivo trae origine da questa somiglianza fisica, ok? Tra il frutto e l'organo. E come avviene per tanti altri sostantivi, qui viene citato gnocca, che è molto molto tipico delle mie parti, per indicare la sua somiglianza più o meno effettiva all'organo femminile. Questo sostantivo, però ci riferiamo sempre a fica, usato per secoli per indicare la vulva, da qualche tempo è diventato una sineddoche, una parte per il tutto, una bella donna, piacente, piacevole, è... Silenzio, perché una bella fica. Quindi, oppure sta anche a indicare una donna molto appetibile e aperta dal punto di vista sessuale. Insomma, ci sono un sacco di piccole, diciamo, di riferimenti alle caratteristiche che possono accomunare 3 milioni di donne nel mondo, che vengono però accomunate all'interno di un unico termine, fica, generalmente accompagnato anche da aggettivi bella, brutta, eccetera, eccetera. Come analogo poi viene usato anche, però, la grande vendetta, la forma maschile figo o fico. Io farei una postilla, una piccola parentesi, l'aprirei, nel senso, se io con mia madre dico che lui è un bel figo, mia madre ride. Se io dico, ah, perché mia sorella è una bella figa, mia madre si arrabbia. Quindi siamo sempre un pochettino sulla differenza di genere. Quando una terminologia di questo tipo viene applicata a una donna è generalmente negativa o viene vista con un'accezione, come diceva Nenia la settimana scorsa, per indicare appunto la parola succun, non si può dire, Sì. Di un'accezione volgarissima, in sardo. La metalinguistica ce lo chiede, esatto. La metaparolaccia ce lo chiedono. E di conseguenza è così anche per il termine figa o fica. Non ha la stessa rilevanza che fico o figo, su questo siamo sicuri, sì. Purtroppo. Ed è da notare anche poi purtroppo il coltello, dimenticato il coltello. Da notare anche poi l'uso del diminutivo fighetto o fighetta, che viene usato soprattutto al nord e sta ad indicare persone generalmente con un po' di puzza sotto il naso, spocchiose, sì. E come dire, poco affabili, ecco. Tutto snobbe. Qua. Snobbe, quindi snobbe. Siamo passati dalla sineddo che di una parte per il tutto al diminutivo, ma c'è anche figone o figona, c'è anche l'accrescitivo proprio bomba. Ma certo. Ma vogliamo ascoltare un pezzo? Ma sì. Un pezzo dei Public Enemy? Oh yeah, questa sera questa non è trash. Diamogli qualche parolaccina al nostro pubblico. Dai, in inglese. Citizens of the nation, I shall not try to conceal the gravity of the situation that confronts the country, nor the concern of your government in protecting the lives and property of its people. However, I wish to impress upon you, private citizens and public officials, all of you, the urgent need of calm and resourceful action. Yeah. Come on! Put your hands in the air, y'all. All right, y'all. Come on! Put your hands in the air, y'all. All right now. Come on! Put your hands in the air, y'all. All right, y'all. Come on! Put your hands in the air, y'all. All right now. Fingers in the air like you really give a damn. Sign up, let me hear you say yeah. Power to the people, put your hands in the air. Peace sign high like I really do care. Fingers in the air like you really give a damn. Peace sign up, let me hear you say yeah. Power to the people, put your hands in the air. Peace sign high like I really do care. Come on, put your hands in the air, y'all. All right, y'all. Come on, put your hands in the air, y'all. All right now. Come on, put your hands in the air, y'all. All right, y'all. Put your hands in the air, y'all. All right now. Rather be sitting just a getting it. Power to the people, not the governments. Capitalists, communists, and terrorists. Swear to God, I don't know the difference. Making new slaves out of immigrants. Wanna know where all the money went. Another trillion spent by the government. Hear the bomb blow, sent by the presidents. Come on. Put your hands in the air, y'all. All right, y'all. Feed us. What? Grand Theft Oil, gonna bleed us. New World Order doesn't need us. Call for peace, better heat us. Dictators, human haters. Hand on the bomb, masturbators. Finger on the button, infiltrators. Make love, fuck war, peace will save us. Come on. The invasion had been under preparation since before he became president. Come on, put your hands in the air, y'all. All right, y'all. Come on, put your hands in the air, y'all. Good Lord! Eccoci, Public Enemy, li abbiamo sentiti. E che cosa ci dici tu, Nenia? Ti piacciono? A me piacciono tanto, però sono un po' rallentata, perché nel mettere e togliere la cuffia mille volte mi sono spettinata e questa cosa non va bene. Perché io oggi mi sento un po' fighetta. E allora, ecco, se devo montare uno specchio in regia. Topa. Soprattutto. soprattutto topa, è chiaro. E perché voi non la potete vedere, la Nenia, ma ha dei capelli bellissimi. Ovviamente. Che ve lo dica, sono fa. Meravigliosi. Chiaro. Ma non ve li descrivo, perché sennò la riconoscereste. Eh no, cui... scusa, vogliamo la sorpresa. Quando ci incontreremo... Voi saprete chi sono, mi riconoscerete dal vello. O dall'accento terribile. No, quello tutte e due. Io ho questo microfono che a volte si fa le scurecchia. Sì, e a volte. Sì, forse è colpa mia, ma no, perché sto cambiando tutto, no, ma lo fa probabilmente lo sono stesso. Io che sono tipo un campo magnetico ambulante. Va bene, dai. Allora, detto ciò, abbiamo una serie di parolaccissime da leggere. Sì. Tipo sorca. Che sorca e topa, no? Sì. Sono questi due sinonimi di fica o figa, che dir si voglia, che strano davvero hanno a che fare con la femmina del topo, la femmina del sorcio. Quello che si diceva l'altra volta, e ci si chiedeva se il fragore era parte dell'associazione mentale. Esatto. Non si sa come, ma abbiamo appunto, no, sorca e topa. E sorca è più laziale, ovviamente, topa è molto molto molto toscano. Eh sì. Non c'è molto da dire. Topa in realtà deriva dal latino talpa ed è la femmina del topo. Sorca è il femminile di sorco, variante regionale di sorcio. È molto semplice. E in realtà poi la topa in Toscana, mi leggevo nella definizione del vocabolario, che è la talpa. Ah, proprio la talpa, non è, esatto, l'animalino, la talpina, cecchino. Ah dai, ma pensa. Così sembrerebbe. Io poi chiedo conferma ai toscani all'ascolto, che ce lo possono scrivere in diretta a posta wombat@insiberia.net. Se è vero, se vi torna questa cosa, o se invece... è una panzana del vocabolario. Chissà. Del mio amico devoto Oli, che le panzane non le dice. No, mai. Dai, lui no. Ma invece in letteratura abbiamo un sacco di cose interessanti, no? Oh! Pufiu. Anche da dire, da leggere è bello uguale. Pufiu. La nostra onomatopea. Ma il nostro Dantaccio che ha Dantaccio, detto? Dantaccio, Divina Commedia. Quel gran topolone di Dantaccio. Sorcone. E Inferno, versi 1-3. Di quale canto? Non lo so. Beh, vabbè. Al fine... Basta, 1-3. Non eravamo poi così esigenti, No, vabbè. Al fine delle sue parole il ladro le mani alzò con ambedue le fiche gridando: togli Dio, cattele squadro. Capito? Sì. E lì poi è cascato il capitello a Santa Croce. Con, purtroppo, Purino. Quella. Ho un amico che si è divertito a fare un calcolo statistico. Divertito nel senso, si è preso la briga di farlo. Non mi ricordo che numero è saltato fuori, ma la probabilità che ti colpisca un capitello nella chiesa di Santa Croce è tipo una su 700 milioni, una roba allucinante. Che poi in realtà dice non era nemmeno un capitello, ma un pezzo di cemento, fregio, che stava tipo tra, non so se tra il timpano e il capitello, una roba del genere. E che tra l'altro è di, ovviamente, di aggiunta molto recente, forse per fare da tappo a qualche vuoto, non so bene. Sentito dire, quindi potrei dire anche una gran cazzata, onestamente, però dicevo così, pur per le... non ho idea, ma penso basti anche un sassolino da 30 metri ti buca il cranio, punto. No, parole, davvero. Ma questa non è una trasmissione di criminologia, né di cronaca nera, non siamo tutte quelle trasmissioni del pomeriggio di tutte le reti del mondo, né tantomeno non da siamo porta Giletti, a porta. Non siamo Cucuzza. Quindi andiamo avanti. Andiamo avanti. Però, diciamo che cosa significa qua con amendue le fiche. Cioè, si rivolge al gesto di far la fica o far le fiche, che si dice ancora oggi. Atto di scherno dispregio ancora utilizzato in alcune culture, che prevede la chiusura del pugno con il pollice frapposto tra l'indice e il medio a indicare l'aspetto di una vulva, indirizzata a una persona o al cielo in segno di bestemmia, come nel caso della citazione dantesca. Invece questa cosa in Sardegna si usa per scongiurare il malocchio, cioè tipo, ehi tu mi stai prendendo a occhio, tiè, mando via il malocchio con questa cosa gesto, qui. Sì. Che è quello. Sì. Tipo lo uso come per fare uno schermo che mi protegga da tutti i malocchi e da tutta la gente che mi vuole corna, male. Tiè. Esatto, vedi, carino. Poi cosa abbiamo? Ne leggiamo qualcuno, tipo due o tre. Qua adesso abbiamo poeta, scrittore vernacolare Giuseppe Gioacchino Belli. Con la terzina di un sonetto del Er Lavore, è la parte finale che dice: va in paradiso, si ce so minchioni, le sante sce grattano la fica e li santi l'uccello li coglioni. Capolavoro. Questo non c'è portare, bisogno di tradurre, vero? Non mi sembra proprio il caso. Poi in realtà sempre il Belli aveva scritto un sonetto, La madre delle sante. Sì, sì, che abbiamo portato. Volta, sì, è il padre degli santi anche. Esatto, sì. Esatto. Sì, che sono che è del... bellissimi. Guarda, 6 dicembre 1832. Capito. E ve la risparmiamo perché l'avete già sentita. Se volete vi scaricate il podcast e la puntata che sarà pronta a breve e poi dopo vi andate ad ascoltare tutto lì. Io ripartirei però, tanto per chiudere il discorso sulla fica, con le mille denominazioni del lemma. Allora, se voi andate su Wikipedia, molto semplicemente, trovate una catalogazione in ordine alfabetico dalla A alla Z con tutte le terminologie più o meno diffuse, più o meno conosciute in Italia del termine, insomma del sinonimo per l'organo femminile. L'affare, l'ampolla, l'anonima sequestri, che questa è di Benigni, l'armadio di Pietro Aretino, insomma, quindi possiamo vedere come ci siano diverse conformazioni, diverse dimensioni. Il caccone in Puglia, il calamaio, il calamaro, la callaia è terribile, mamma mia, di Luigi Fulci. Il castello di Boccacci, il canto di Lorenzo De Medici, che non è il canto... l'azione del cantare, ma è il canto, quindi l'angolo della via. La cassa della viola di Pietro Aretino. Poi cosa abbiamo? La corda di liuto di Malerba. Quella cosaccia. Il cratere del Vesuvio, sempre del Malerba. Abbiamo l'entrata maestra di Giordano Bruno. Abbiamo la F puntini puntini di Giuseppe Parini, che lui comunque era un signorino a modo, amico dell'Alfieri, per cui insomma a modino. La faccenda di Pietro Aretino, la foca, il fodero, sempre di Pietro Aretino. Passiamo, andiamo avanti con la G, la gnacchera, la gnocca, la grugna, la grattugia, sempre di Pietro Aretino. Accidenti, Pietro Aretino gli garbava. La lallera. La Riccardo Marasco, la mi disse del marmato, la mi fece scomparire. Che bello. Poi la mandola, che c'è Veneto. La mandola, anzi, perché la L non viene pronunciata in certe zone del Veneto. La Mona, Trentino, Friuli, Venezia, Giulia, va in Mona, si dice anche per mandare qualcuno a quel paese. L'Orcio di Lorenzo De Medici. La Potta, che è comune in Livornese. E poi abbiamo, strano ma vero, la Pota nei dialetti bergamasco, bresciano e cremasco. Capito? C'è la differenza di una geminata, ma penso che l'etimo sia lo stesso e ve lo diremo la prossima volta. Ecco. Il ramino, il ripostiglio, il salsiero, il salvadanaio, lo sbrego, la scanceria, lo scodellino, lo sticchio, lo strumento, la tana, il tegame del Belli. La zerniapola. Questa non so se sia una cosa che si è inventato qualcuno. Che però c'è il tegame. In Veneto. C'è il tegame. Tegame, tegame. Che è notorio. Chiaro. De boia de tegame. Tegame di tua. Poi abbiamo, sì, la zucca, la zurla, ma la zampogna. Vogliamo parlare della zampogna. Vabbè. E quindi ce n'è da dire un'infinità. Però abbiamo già dedicato ormai due puntate, due mezze puntate. Quindi è più che sufficiente così. Basta. Facciamo finta di reiniziare tutto da capo. Esatto. Iniziare la nostra nuova puntata con un pezzo. Faccio partire un pezzo, dopodiché si vedrà. E poi vi raccontiamo tante belle cose in generale. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! One, two, three, four! Pezzo un po' sbarazzino, così per farvi risvegliare un attimino da tutte queste parolacce orribili, scurrili, maleducate, brutte, quelle della brusca. Preferiamo la vera crusca. Siamo un po' monelle in questi giorni, oh. Pochino. No, la crusca mai. La crusca mai. La crusca però non si tocca. L'istituzione, ok, vabbè. Non si tocca la crusca, dai, non si può. Facciamo finta di niente. Ok. E andiamo avanti con la top 10. Anzi, la top 17. Sono molte di più. Abbiamo una vera top. Top 70, no. Sì, sì, sì. 17, 17. Ah, 17. Ah, ok. Sì, sì, sì, sì. Figuriamoci. 17. Come gli East 17, se qualcuno se li ricorda. Questa è una cosa che abbiamo ripreso sempre dal nostro caro vecchio sito parolacce.org, che ci ha dato una gran mano a fare queste con puntate. Un grafico a torta meraviglioso. È tutto lì. Cioè, noi possiamo metterlo come tatuaggio. Logo. Anche. Sì, mi piace. Come logo alla puntata in podcast. Sì, perché è notevole. È esemplificativo. Sì, figativo. Certo. Facciamo un cappello introduttivo, così poi glielo spieghiamo ai nostri ascoltatori che cos'è questo meraviglioso grafico a torta che noi abbiamo sotto gli occhi. In media, come si diceva all'inizio, una due puntate fa, che pronunciamo 15-16.000 parole al giorno. Lo 0,5 di queste sono parolacce, il che, facendo un calcolo molto breve, sono circa 75-80 parolacce al giorno per gli inglesi. Quindi 5 all'ora, escludendo le 8 ore di sonno. Il nostro 0,08 è quasi una parolaccia all'ora. Cioè, ragazzi, perché non mi hanno mai registrato alla guida. Nemmeno a me. Ho appena sveglia, turpiloquio davanti alla macchina del caffè, proprio per ringraziare il nuovo giorno che si sta aprendo. Quindi abbiamo trovato, sempre su questo carissimo sito di parolacce.org, questo meraviglioso grafico a torta di cui appunto parlava la Nenia, che è una divisione in percentuale delle parolacce, insomma, della categoria, dell'ambiente semantico, come dirlo, delle parolacce. Ovviamente qual è la più diffusa? Quale vuoi che sia? La prima? Quelle sul sesso, 39,2%. Quindi in realtà rientrano ovviamente anche cazzo e figa in queste, di cui abbiamo parlato nelle ultime due puntate. È assurdo, vederlo così si rende tutto molto più chiaro. Molto, molto italiano. L'essere umano, dove sta andando. Ma dopo il 39,2% che cosa segue dopo il sesso? La religione, 19,7%. Poi abbiamo l'enfasi. Hai capito, Pierino? E qui i grandi amici della Brusca e della radio in generale, che mitico. Abbiamo avuto l'onore di pranzarci assieme domenica e ne è uscita di ogni. L'enfasi, 14,9%. Gli escrementi, 11,6%. E alla fine gli insulti, il 14,4%. Strano, gli insulti, così. Questa è una classifica dell'anno scorso, del 2016, per cui vediamo se effettivamente nel 2017 ci sarà un'evoluzione. Sicuramente, perché il mondo cambia, la lingua è viva, fambosè. Quindi cazzo, va bene, rimarrà al primo posto. Al secondo posto che abbiamo? In semi pole position col cazzo. Lei, l'unica, inimitabile. La signora celeste. La celestissima. La signora celeste. La donna di maggio. La Madonna. M di maggio. E poi... Ed è l'unica a battere la terza. Tu che sei nata dove c'è sempre il sole. Che batte la terza subito che... dopo il cazzo e anche prima del casino. Il casino, na na na na na. Ah, cari il miei, casino, che sempre detto dai genitori, non dire casino, una parolaccia, non si dice casino, si non dice confusione, vero. Casino, dai, è casino è anche abbastanza pulita secondo me come parola, si può usare, dai. Mi sto per sentire male perché ho letto una spilza di parole tutte assieme. Perché dopo no, casino... cioè, capito? Leggi cazzo, Madonna. Casino in confronto sembra una parola che puoi usare a tutte le ore, anche a scuola o a lavoro. Cioè, dopo abbiamo Dio, stronzo, balla, palla, stronzata, esatto. Coglione in culo, incazzare, scopare. Cioè, casino, cioè, in confronto mi sembra davvero. Siamo all'ottava la parola posizione del giorno del nostro carissimo sito. Siamo all'ottava posizione. Tra l'altro Dio, effettivamente, facciamo un piccolo disclaimer, non è inteso come Dio una parolaccia, è che... Usato, chiaro. Il famoso pronunciare il nome di Dio a Ivano, come dicevano, in vano è comunque, rientrano nel turpiloquio. Sì. Stronzo, balla, palla, stronzata, coglione, culo, incazzare, scopare e... No, ma... Clamoroso. Ma dai, no, non si può nemmeno vedere scritto. Clamoroso. Infatti ha un colore diverso, è rosa, in questo schema che noi abbiamo, la parola negro. È terribile che rientra che nelle offese, rientra nella... Mamma mia. Addirittura è sopra merda, ragazzi. Questa la dice lunga sullo stato di salute dell'essere italiano. Cazzo. Cioè, va, è prima di merda, è prima di imbecille, di cretino, di deficiente. Questa proprio non me l'aspettavo. Invece. Stiamo messi proprio male. È prima di vaffanculo, di cagare, di cacare, di pirla. Mamma mia. Sì, vabbè, però cioè, sì, c'è mezza Italia che è fuori di testa. Esatto. Ancora. Strano ma vero, alla 13ª posizione abbiamo puttana. Ma guarda. E alla 15ª frocio, perché anche queste sono. Penso un po'. Sì, parolacce. Sono quelle tre parole che tu davi quasi per scontato fossero scomparse dai più, insomma, dalla grossa produzione. Invece sono ancora qua, guarda. Sì, sì. Cioè, no, vabbè. Ma io preferisco pirla. Pirla è. Sì, pirla mi piace. Voglio sostituire tutte quelle che abbiamo detto ora, queste tre brutte, orribili, che non voglio ripetere, con pirla. Pirla. Usate la parola pirla. Sei un pirla. Sei un pirla. Non mi piace nemmeno porco, perché il maiale, poverino, non va offeso. Bacca. E quindi come offesa, dai, mettiamoci tutti d'accordo. Usiamo solo la parola pirla. Oh, quella bellissima, cretino. A me piace un anche, cretino. Sì, a me piace anche mentecatto. Proprio la sostituirei, pirla e mentecatto, con tutto questo che vedo. Me lo concedi, cretino? Sì, anche cretino è molto fine in realtà come offesa. E poi insomma, cretino, cosa possiamo pirla. Sì, dai, votate il vostro tappa offesa preferito. Sì, dai, votatelo subito alla mail postawombat@insiberia.net. Esatto. Votate la parolaccia che offende, ma senza essere truce. Esatto. Offendi solo chi ti offende. Facciamo una campagna. Offendi chi ti offende, difendi il tuo orgoglio, offendi chi ti offende, ma con garbo, ma con e garbo. Stile. Sì, per forza, un po' di aplomb e savoir-faire. Igiene, aplomb, senso etico e savoir-faire. L'ho detto tutto, ma non sono ci mio, siamo. Ovviamente. A questo punto cosa diciamo? Vorrei partire, perché abbiamo detto, abbiamo cazzo, scelto la parola, figa. No? In quinta posizione c'è quella parola. La facciamo dire prima da un grande. Sì, attore italiano. Raccontare. Questa mia analisi finisco con una parola italianissima, come saprete, è una parola che sta sul vocabolario, però per non essere volgari ve la dico in una certa maniera. Ho comprato un bel vaso di Murano, che strano, che strano. Ho comprato un bel vaso di bronzo. La parola è stronzo, ovviamente, che sta sul vocabolario, sul devoto Oli, c'è scritto sterco a forma cilindrica, però per traslato, epiteto che si usa per persone imbecilli, cretine, inette, incolte. No, io non sono d'accordo, perché stronzo, anche una persona colta può essere, anzi, a volte più soccolti, non è una legge, però insomma, ecco, ora questa frase. A questa parola noi romani abbiamo dato tali significati sfumati che non la puoi dire con un'altra parola, dice vuol dire solo quello, non c'è niente da fare. Tu dici è stupido, no. Si può arrivare a cercare di capire il significato con degli esempi. Uno buca con la macchina, buca per strada, mette il cric, alza la macchina, leva la ruota, i quattro bulloni della ruota gli vanno a finire dentro una voragine. E si trova così, con la macchina alzando per aria, diciamo che faccio. Guarda davanti, su un muro c'è scritto manicomio ed è sopra, dietro all'inferriata, c'è uno costa. Quello gli fa, dice, guardi, se fossi in lei, se va bene, non te stancare. Dice, no, dice, se fossi in lei io leverei un bullone per ruota e a tre bulloni per ruota andrei al primo posto di rifornimento. Grazie, ma te le tengono lì dentro? Ma io sono matto, mica sono stronzo. Ecco, questo è. Allora, questo si avvicina vagamente. Oppure si possono fare degli esempi nei quali è necessario e indispensabile usare questa parola, che chi di noi non l'ha usata nella vita perlomeno 20.000-30.000 volte, insomma, no? Anche persone coltissime, magari religiose, però insomma a volte te la levano proprio dalla bocca, ti arriva uno a 200 all'ora, conto, ti dice, oddio, ma che devo dire, tu, i capelli dritti e inchioda a 10 centimetri dalla scarpa, che cosa gli vuoi dire? Ehi tu, incauto, non puoi fare altro che dire che gli devi, per più puoi premettere alla parola un A, no? E poi se vuoi completare il concetto, metti la mano a cucchiarella, la metti vicino alla bocca e fai tutto insieme. A stronzo! Per forza, al minimo. Oppure, per finire, un esempio d'altro uso, per trovare magari un sinonimo, tu fai 3 ore di fila con i soldi in mano, 3 ore. Quando tocca a te, quella ti chiude la cassa, ci spiace, e dice, rimase lì come uno stronzo. Ci può essere un sinonimo, qui si può usare anche coglione, che va bene anche qui. Ci rimase come un coglione, però insomma non c'è paragone. Prima di tutto è un sinonimo, poi sappiamo tutti che coglione nasce gemello, voglio dire, no? Invece stronzo nasce solo e muore solo. Perché? Ma perché è stronzo? Ma perché? Così e tu fa una piega. Incauto. Mitico. Ma guarda sto incauto. Mitico Gigione Proietti. Gigione bello. Perché è Gigione. Lo rende, sì, lo rende più simpatico. È un umore. Quindi insomma è chiaro. E quindi ci siamo arrivati proprio lì. Mancano pochi minuti alla fine. Quindi in realtà anche sullo stronzo ci sarebbe moltissimo da dirvi, però abbiamo trovato un articolo meraviglioso. No, solo per la provenienza dobbiamo fare anche da una parola tardi, al giorno, cioè. L'abbiamo nominato anche prima, prima ed è il nostro fulcro, no? Di movimento e punto di riferimento della Brusca. Ogni mattina prima della sveglia. Esatto, o dopo che è suonata la sveglia arriva la mail, a me arriva la mail. Grande. E io l'apro. La parola è stronzo. Stronzo, significato, massa fecale solida di forma cilindrica o persona odiosa. Probabilmente dal longobardo strunz, sterco. Quindi wow. Tra pattoni non si era sbagliato, ecco. Per gli appassionati di calcio, che nessuno però sappiamo. La leggiamo? Eh sì, dai. Facciamo metà e metà? Sì. Io arrivo poco? Ok. È metà, scusate, andiamo un'occhiata. Più o meno, sì, ma va bene, sempre allora, piacevole. Questa parola ha un'importanza capitale. Infatti, quotidianamente decine di milioni di persone la usano in senso figurato per dare a qualcuno un generico attributo negativo. Certo, il suo richiamo alla materia fecale, agglomerata in solidi cilindri, le conferisce un colore molto vivace, quanto non è solo volgare. Ma il dato più rilevante di questa parola è che, in effetti, comunica molto poco. Tizio è stronzo. Sì, ma come? In che senso? Così abbiamo solo fatto capire che qualcosa di Tizio non va, non ci piace, senza, nei fatti, descrivere alcunché. Invece esercitare il discernimento è essenziale. Se non si discerne come Tizio e stronzo, mi piace. Tizio e stronzo, mi piace proprio. Con la T maiuscola. Sì. Si rinuncia a comprenderlo e quindi anche ad agire nei suoi confronti in maniera ponderata. Se Tizio è disonesto o se è scortese, cambia parecchio. Stronzo è una parola miope che non permette la perspicacia. Questo è accettabile nella normale economia dei discorsi, ma solo finché non diventa un limite, finché non comprime la nostra capacità di conoscenza. In altri termini, va bene usare la locuzione mal di pancia, ma è importante capire che tipo di mal di pancia è, se tocca intestino oppure stomaco, se ho mangiato troppo piccante o se devo correre all'ospedale. E lo stesso, cari miei, vale per lo stronzo. Motivate la scelta e la motivazione per cui questa persona a cui state dando dello stronzo è stronza, ve l'ha detto anche Gigi Proietti. Più di così che dobbiamo fare? Dobbiamo dare gli appuntamenti. Un po' gli appuntamenti sul finire, perché come sempre alla fine rubiamo quest'ora al tempo del palinsesto wombattiano. Dicendo che Facebook, Twitter, tutte queste cose ormai le persone l'avranno belle digerito, e quindi facciamo finta di niente, tutti lo sapete, andiamo avanti. Sappiamo che cos'altro? Sappiamo che venerdì 27 ottobre c'è dalle 17 il mercato genuino clandestino in Piazza Tasso. Che buono! Quindi se vi muovete in bicicletta, secondo me vi conviene meglio, perché domani c'è sciopero, ci sarà un gran casino, un sacco di movimenti di macchine. Quindi andate in Piazza Tasso ma in bicicletta. Poi 27 andare a Bologna come c'è il sciopero. 27 ottobre dalle ore 22:30 al Next Emerson. Qui abbiamo Dio Drone e Collettivo Nuovi Rumori insieme per un concerto metal, crust punk, black, svrex, di tutto, di più, da Trieste, Bologna, Firenze, tantissimi gruppi, Grime, Loia e chi più ne ha più ne metta. Grime sono una bomba. Mi sembra di ricordarli, sì, già visti a Firenze, se non erro. E poi i DJ set, forse a cura di Radio Wombat, chi vivrà chi vedrà. Chi lo sa, quindi se andate all'Emerson forse lo scoprirete. Next Emerson, via di Bellagio, tra Sesto e Firenze, ma non ancora Sesto Fiorentino, quindi per orientarvi, se magari digitate via di Bellagio, cercatela su Firenze. E questo per quanto riguarda venerdì 27 ottobre. Poi abbiamo 31 ottobre, la notte festosa, perché il giorno dopo non si lavora, non si va a scuola, non si studia, non si fa più o meno niente. E abbiamo una cena più presentazione libro. Il libro si intitola Correvo pensando ad Anna. Dopodiché abbiamo un concerto rockabilly horror, horror soirée proprio. E a seguire DJ set degli Emerson Setter. I gruppi sono The Mogis. Loro vengono da Svezia? No, sono non mi ricordo, però anch'io. Insomma sono carini. Nell'ambiente sono conosciuti. Sì, nel rockabilly e rock and roll, sì. E questo è quanto. Perciò vi possiamo lasciare così, tra un appuntamento e l'altro, dicendovi di venirci a trovare in queste serate. Ci manca una cosa forse, c'è un machine funk alla Polveriera, che è una cosa molto carina. Quando è? Sabato pomeriggio. Ma non sabato mi pomeriggio se è sabato. Dalle 6 alle 11. Brava. Cui anche un orario tranquillo se volete andare a Nanna Presto. Macchinette a go-go, chi vuole provare, chi ci vuole mettere del suo, le macchinette sono a disposizione, si fa tutti assieme bella musica elettronica. Bravissima, che tra l'altro è una cosa molto carina, poi alla Polveriera sono molto carini, quindi bene. E noi abbiamo detto tutto quello che dovevamo dire, ci diamo appuntamento la prossima settimana sempre alle 19:30 giovedì, ascoltate Radio Wombat tutto il giorno, tutti i giorni a tutte le ore troverete sempre qualcosa, palinsesto sul sito, o la nostra compagnia. Aggiornatevi, una compagnia fenomenale, troverete le nostre due puntate della settimana scorsa e di questa pubblicate nel sito alla voce podcast. Detto ciò, Wombat a tutti. Wombat a tutti e la settimana prossima. E un saluto al cucciolo Wombat, anche se è nato nello zoo, liberiamolo. Andiamo a tutti a liberare questo libera Wombat americano. Wombat libera tutti. E ricordate che la settimana prossima ci saranno non uno ma due beep. E su questa io direi addio. Oh, ciao. Bye bye. Ecco il coro, però deve essere un coro forte. Io sono stronzo per stare in casa. Io vado a zozzo come uno stronzo. Che felicità! Che sono i coglioni della vita. Io sono stronzo, testa di cazzo. ammassare. Io sono stronzo.